Mi dica allora questa, se è vera, come ultima cosa, poi chiudiamo la vicenda, di questa intercettazione che riguarderebbe lei e suo fratello, nella quale lei direbbe a quel maresciallo, per il quale è indagato per calunnia, gli viene da sparargli col mitra. Guardi, allora, in un processo per calunnia non ci sono intercettazioni, non ci possono essere. Il processo, gli atti sono a disposizione di chiunque li voglia vedere, a parte perché il processo è dibattimento, quindi non quindi lei l'ha detto o no questa frase al telefono? Guardi, non esistono intercettazioni, quelle che c'erano nel processo di mio fratello furono 9 anni fa dichiarate inammissibili perché fatte senza autorizzazione. Io non le ho mai lette. Non le ha mai lette? Non... Direi proprio di no. Però voglio dire, se questo... Dovevano essere distrutte. No, se questo... Io non so se l'ho detto, non l'ho detto, se chi parlava a telefono, non sono mai state sottoposte a una perizia, non si sa... avrebbero dovuto essere distrutte. Sarebbe interessante sapere come mai questo giornale è in possesso di... Ah, certo. Avrebbero dovuto essere distrutti 9 anni fa. Non erano utilizzabili, quindi andavano distrutte, però lei dice, io non lo so, può darsi che non mi ricordo cosa ho detto, può darsi anche... Guardi, io non escludo nulla, io credo che parlando con un familiare, quando ci si trova magari con una bomba sotto casa o con... perché questa era la situazione dell'epoca, o con tua madre anziana costretta a scappare di casa di notte, o con i bambini costretti a lasciare la casa nel cuore della notte, si possa dire qualunque cosa. Io non ricordo di aver utilizzato queste parole mai, ma non lo escludo, credo che in un momento di rabbia ognuno possa dire anche delle cose vergognose in una conversazione che privata, fatta in situazioni particolari.